sì, sì. Prima di Ponte Romano lì, all'entrata. Però è un'officina, mi sa, no? Lui ce l'ha. Lui non ce l'ha, dice la via Cottoni, mi pare che sia quella via. C'è l'officina di Motto. Ah, oh, siccome io leggevo sempre, c'era il segnale lì, un tabellone rando. Ah, forse c'è la carrozzeria lì, l'altro frattempo. Ah, ecco, infatti è quello che ti dicevo, che io tutti gli anni che passavo lì vedevo sempre questo cartello di rando, non ci sono mai entrato. Sì, sì, deve essere fratello, però che... Sì, è fratello. E Rando giocava lo Serrande anche, appunto Romano. E facevano anche, avevano il punto per guardare le stelle, avevano, come si chiamano, microscopi, allora il microscopi, il stetoscopi. Sì, erano appassionati di questa roba. Erano bravi meccanici. E la sorella la conosci perché la chiavi a Balai. Sì. Beh, non mi ha regalato il gatto, non l'ha regalato lì. Cioè il marito, veramente, io non volevo far regalare, volevo vendere. Sì, vendere, sì. Capita. Vendere i gatti è un po' un problema. Te li fanno pagare i persiani, te li fanno pagare. Però manco 400 euro. Ma io sono contrario a comprare gli animali. Aia, bolla! Ti sei monello a comprare, a mossa a mano. Io sono contrario a comprare gli animali. Vabbè, brutto monello. Sei come un'ora. Sono contrario a comprare gli animali. Questi qua sono i figli della gatta che ho io, l'ha trovato Manuela sulla Woody Woody, ho trovato una gattina piccolina, l'ha portata a casa, e poi è rimasta incinta, è piccolina anche, avrà un anno e mezzo, questi qua non si resi, non è che ho preso a guardare tutti i cucchini già, non è buttato la macchina, vero? E vabbè, in campagna gatti servono sempre gatti, perché ci sono topolini campagnoli, non so se altri ci sono, ma in quasi tutte le campagne quei topolini piccoli di campagna ci sono. Sì, a voglia, sì, ci sono, ma chi non li mangiano, chi li assoppeccia a crocchette e a panini, che la notte mi occupa, chi sono in viaggio, vero? Allora, di altre versioni di guerra, ministro dei crocchetti, non è lo... No, è un giorno che vi faccia la iatta. E allora, si giocano, di un giorno, di altre magnazzini, eh? Sì, si giocano, poi li ammazzano e li lasciano. E allora non è già stata la fame da Zurigo, no? Già è già stata che mangia crocchette, bustine, non è vero? Io ti compro le bustine, non è vero? Non è vero la differenza? La mia diffusa. Non te lo fa mai con le zampe, palparti con le zampe di davanti? Cosa già? Non te lo fa mai a palparti con le zampe di davanti? Tipo come premere la mammella della mamma? Si chiama fare il pane, sì, vogliono in pratica, prendono la sindrome della mammella, sì, è vero, è un sintomo di felicità, che stanno bene. No, ti vogliono dare l'affetto, un senso di affetto, perché ripristinano l'acqua che fanno quando succhiano il latte dalla madre, quello lo so di sicuro perché l'ho letto. Sì. No, questo è proprio bello, anche l'altro è bello, questo qua però è proprio peloso, guarda che stava roba di Beru. Bello. Con le belle? Ma non lo so perché sono sempre fuori, sono tenuti bene perché già li spazzoliamo, li facciamo, però rimangono fuori, no, adesso io ce l'ho dentro perché sono voluto entrare, ma si imbarra fuori subito. No, io non ne ho né gatti né cani, cosa ne fai? È un impegno grosso. È una passione, come tutte le passioni, se tu ami gli animali, ce li hai, se tu non c'hai un animale non puoi mai capire che cosa. cosa vuol dire avere un cane o avere un animale. Io per dire ho pappagalli che parlano e sono soddisfazioni sempre di parlare, dire parole nuove, ho il cane che per me è come un figlio, come dice Gabriele, è come un figlio. Eia, Gianni, io ti capisco, ho avuto, però ho finito quello, non basta, è troppo impegnativo. E va che si impressione così arriva. Ti dà un po', ti fa uscire, ti sprona a uscire, a farti quattro passi, come fa con me. Io la mattina esco, mi faccio la passeggiata con lui, intanto cammino e mi sprona a uscire. E faccio amicizie fuori, perché quelle col cane si avvicinano, faccio amicizia, parlo, mi faccio una chiacchierata con uno e con l'altro. È una cosa bella, dai, ti aiuta a socializzare. Vabbè, tutto quello che vuoi, ma è un grosso impegno il cane. Lo puoi andare per chirurghi, più di tanto, perché no, niente, oppure te devi portare a presto. Poi a casa di là scrivo un cane con butta che non è educato. Allora ti capisci. Ma non è vero manco. Io il cane lo lascio a casa, il resto tranquillo, con lo trovo per fare festa. No, io a casa non, io a casa degli altri già non lo porto, io sono sempre qua in campagna e vabbè, io l'ho preso perché abito in campagna, altrimenti già io un appartamento, abitando in un appartamento non so se cane ne avrei mai avuto, cioè c'è la mia madre, ce l'aveva mia madre, tutto quello che vuoi, però era legata, era molto legata, perché è vero, un impegno, non può uscire, non può fare niente, c'è l'impegno suo. Il gatto è più diciamo più solitario, non ha bisogno di uscire, c'è la sua sabbietta, però il cane non lo puoi lasciare tanto da solo a casa. Ripeto, io ho preso il cane, a me gli animali piacciono, non sono sempre piaciuti, abbiamo sempre avuto animali, sia io che la mia compagna a casa, e ci piacciono, però il cane, almeno non avrei preso dei cani grossi come c'ho io, mi sento, io li ho presi perché abito in campagna, quindi rimangono fuori, però anche rimanendo fuori sono un impegno, perché più di tanto fuori, cioè fuori da casa non puoi stare. E poi fate due danni, niente chi si va giù o non è nuovo simile. Ma che si bida di sembrare basta a fare un casino, solo a fare un cofano, pare che bisogna che la macchina dare il caricamento già. Però in campagna mi piacciono, io per quanto possiamo noi li teniamo bene, sono belli trattati, belli fatti, però mi arrivava. Adesso dopo che c'ho l'alimentazione, italiata monella, e dopo c'ho l'alimentazione ed era pelle di gabbo, che dite quello vuole, avete detto di quello vuole? Sai cosa è? Che quando esci, non puoi rimanere più di due giorni o di un giorno fuori. Se tu devi andare da qualche posto, ma ti devi andare nella zona di Cagliari, capi due o tre di non lo puoi fare, a chi sono gli animali, e devi rimanere per forza a casa. Io c'ho mio figlio, dico Marco, vai a casa che c'è teso da solo, portalo giù, se non va lo porto, li fa da mangiare, Sì, ma questo è un altro discorso già, c'hai una persona a casa che te lo guarda, ma se non vai a nessuno, da tre bambini, che è seconda che lo dici, ti dici, perché se mi da tutto a me? Non è giusto che devi caricare la roba agli altri. Lo fa volentieri, qui c'è la mia compagna qua, lo porta lì, adesso mamma sta lavorando, mi viene male, ma se no quando io l'ho ricoverato l'hanno portato sempre loro, e poi quando sono tornato a casa che non riuscivo a camminare, lo portavano sempre loro, facevano a turno, un po' la mia compagna e un po' lo portava male. Ma vai a Tovigliori, vai, cioè, te lo porta la compagna perché tu eri dovere, ma io hai arrosato, cioè, lo prendo, cosa faccio? Lo prendo e lo lascio andare in strada, no? No, oh, quello no, torna, se non ha nessuno che te lo tenga, in caso che ti serva di andare fuori, così, lo so, però io grazie a Dio ciò che mi richiede, anche se mi dà fastidio farlo fare agli altri, perché io so come, lo conosco bene, stare studiato, vabbè, anche Marco lo conosce, sa com'è, come si deve comportare, con riservola, con tutto, senza rischiare niente, mai avvicinato agli altri e così. E non devi sapere com'è il cane, devi conoscere il carattere. E il pappagallo l'altro giorno gli ho liberato per pulire la gabbia. Sono andato sul cavo elettrico, perché c'ho una prolunga nel frigorifero che qui c'ho l'appesa sopra, perché invece che essere giù è sopra, perché era la presa per attaccare la cappa, invece io la cappa ce l'ho di quelle chiuse, di quelle elettriche senza sfogo che hanno il filtro là. E quindi l'ho attaccato sopra, gli ho fatto fare il giro sopra la porta, l'ho attaccato con i più di bene tutto qua e l'ho attaccato là per la presa lì. E praticamente Pappagallo l'ho visto, stava mangiando il cavo lì. Un singhiello si dice. È bello, però c'è bello gatto. Quando le lascio andare tutti insieme, se ne è un gatto, mi sono micidiale. Ne ho 5, ne ho. No, tutti insieme no, uno a uno le faccio le gabbie, se no fanno casino meno, si bisticciano, fanno, li lascia perdere. A uno a uno. Allora, prima uno e poi la coppia. La coppia la lascio andare insieme. Ma mi vanno sulle spalle, tutto quanto. Non danno fastidio di niente, solo l'altro giorno che siamo sono abbigliato, andiamo a via. Hanno mandato la guerra esterna e hanno dovuto mettere un po' di silicone bianco per non vedersi. E tanto ci va di nuovo, capito, ci va di nuovo, lo devo mandare via perché ci va sempre. E vuol dire che gli piace non fregare gli altri. Ti piace, quando faccio colazione sai cosa fa? Prendo le cucchiaine e lo sbattono al tavolo perché gli piace il rumore e si mettono a ballare. E beh, a posto il cucchiaino perché non gli metti la musica? Sì, gliela metto la musica e poi lo sanno fare anche la famiglia, la fischiano, fanno così, fanno la canzone della famiglia Adams, fanno quella canzone lì, quindi ci danno un bacio, ti dà il bacio, però ogni tanto di dire cosa di beccarti il lobo degli orecchi gli piace. Ma li hai addestrati tu oppure li hai già presi così? No, io, tutto io ho fatto. Me l'hanno dati piccoli, capito? Quindi avevano un mese e mezzo quando me l'hanno dato. Quindi ci hanno estratti io. E prima erano selvatici, proprio si sbattevano la gabbia e cose. Poi piano piano si sono fidati. Devi avere molta pazienza, non farmi fare le cose che vuoi tu, devi lasciarmi fare a loro un po'. Non devi costringere a fare le cose, sennò se ti becca. E poi gli metti il bagnetto, si fa il bagnetto, tutto qua. E sono belli da vedere, se te li posso vedere ti incanto. Io quando ero ragazzo andavamo almeno, andavamo sempre in giro così, no? Andavamo a prendere le sigarette al tabacchino, che c'era almeno, e c'era un pappagallo, c'era, e parlava in sardo questo qua, parlava. Un giorno mi ha detto il padrone, dice, fai finta di non pagarmi le sigarette e andartene, vedere cosa si dice. Prendo io, mi dà le sigarette, giro a palle e me ne stavo andando. Oh, si è girato questo qua in sardo. Oh, quello non ha pagato, è ladro, pagato, non ha pagato. Questo scemo, attento, ti casino attento. Ma cos'era di quegli ara grandi? Quei grandi, quei tutti colorati. Gli ara sono, quelli vivono cent'anni, vivono più di noi. Ah, vero? Sì, sono centenari, a meno che si ammalino, che cosa, però la loro vita di cent'anni. Aspetta, e questo dal mare usciva fuori? sempre al suo posto. Ce n'era uno che passava, questo qua diceva sempre cornuto, era fuori di un negozio di animali, e diceva sempre cornuto, cornuto, però lui alla fine si è rotto le barrette, ha finito e ha detto se non torno per pappagallo, ogni volta che passo mi dice cornuto, e te, perché tutti lo sanno, sono lì che non lo sa. No, questo era bello, parlava in sardo, dialetto sardo parlava, sapeva i prezzi di tutto, sapeva, è micidiale. Io ne conoscevo uno, tanto tempo fa c'era un negozio di animali lì a Roma, c'era uno che si chiamava Loretto, e quando dicevi, come ti chiami? Loretto, poveretto! Loretto, poveretto! Ho visto tanti che ce l'hanno questa roba qua, però addestrarli è un bel casino, eh. Io ho avuto sempre la passione, ho avuto sempre da ragazzino, andavo a mischiare, prendevo gli uccelli, li pulivo, li facevo, me li allevavo, li facevo fare i figli. A casa qua, praticamente mi sono fatto l'allevamento di canarini quando ero solo, quando mi sono separato mi sono fatto questo allevamento di canarini, perché le donne, sai come sono, non sopportano nulla, quindi l'ho fatto dopo che mi sono separato. Ho fatto questo allevamento di canarini e ho preso dei canarini particolari che costavano anche un po' di soldi. Questi canarini hanno cominciato a fare figli, ho cominciato a venderli, a farli, e poi da questi soldi ho comprato i pappagalli. Ecco com'è andata. Avanti, garzone. Sì, no, le sono belli. Le sono belli, io c'era un figlio che voleva prendere una scimmia. Però poi, dai, era un mezzo casotto. Non avevo tutta la sensazione per la scimmia, però poi era, dai, è molto impegnativa. È molto impegnativa, quindi diciamo che okay. E niente, poi ho lasciato perdere, Va bene, io mi devo salutare perché è già, sono già le 12:30, per domani mattina la sveglia. È presto per andare a compiere il nostro dovere, quindi devo sistemarmi ancora i cani, ritornando al discorso, devo sistemarmi ancora i cani, quindi e devo chiudere le trasmissioni per stanotte. Un saluto, ciao Gianni, ciao Franco, è sempre, un piacere per me. Comunque sono tranquillo, così tranquilli, sereni, una bella cosa pacata, discorsi interessanti. Un saluto di nuovo a voi e un saluto a tutti gli amici SVL che stanno, SVL che stanno ascoltando qua, e ciccia. Ciao, buonanotte, da più di Gianni. Ciao Gabi, grazie per il prossimo, dai, ci sentiamo, buonanotte e buon lavoro per domani, dai, avanti. Ehi K, ciao Gabi, grazie anche a te per questo, e buonanotte e buon lavoro per domani, ci sentiamo al limite domani, dai. Questi sono gli orari più belli per fare un QSO, c'è poco QRM, c'è e tutto. Ok, sentiamo, ciao, e prima. Un branco di ascoltori. Madrelingua l'ascolto. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Avanti. Avanti, sacco. Cappa. Poi doppio SVL mi sa che siamo un po' tutti. Beh sì, adesso non ci manco più bisogno di avere il permesso, prima chiedeva proprio il permesso. Io ce l'ho anche appeso al muro, la licenza di essere SVL, però adesso non ci puoi più, puoi ascoltare senza divulgare ciò che senti, e basta, tutto lì, non è che... Naturalmente adesso non ci sono più né polizia né carabinieri, ma prima c'erano, e dovevi, se sentivi qualcosa magari girando, dovevi farti gli affari tuoi, non dire niente, basta, tutto lì. Capo, sì, vabbè. No, ce l'ho anche io, ce l'ho da vecchia data, ce l'ho da un bel il primo periodo che ha cominciato, quella lì, che mi aveva fatto fare un amico, diceva guarda io devo fare questo, cosa te la vuoi fare? Falla, facciamola, e l'abbiamo fatta. E ce l'ho sempre qua, ce l'ho, e da una parte. Tanto, anche se a me piace un bene lo stesso ascoltare, manderò dei materiali, ci sono sempre, infatti c'ho tutto per ascoltare i radioamatori, tutto, e tutti i giorni quando non c'è nessuno allora ascolto lì. E anche io ce l'ho, recepitore, un bel recepitore piccolino, maleabile, c'è tanto l'antenna chiusa per la 27 e mi faccio un ascolto lo stesso, benissimo, 40 metri, 20 metri, 18 metri, tutto. Certo, e con la mazza io ascolto tutto ascolto. Poi c'ho per le altre frequenze c'ho la X200 con un ricevitore e ascolto lì. Per le due. Certo. Sì, vabbè. Io è che non ho numeri di frequenze, dovrei avere un po' di numeri di frequenze. Vabbè, ma già ne cerco, non è che ne cerco io. Ma che cosa? Tutte le frequenze? Sì, se li preparo e se li mando. E fa la fotografia al limite, se ce le hai già scritte, capito? Ehi, non ti preoccupare, già te li mando, oppure te li metto in un coso, qualche giorno, cioè, ti troviamo a te li do. Ehi, non so questa cortesia, perché ne ho poche. Io ascolto molto dopo i 7.000, sui 40 metri, quasi sempre li ascolto. Ehi, tu stai dicendo dei 40 metri di HF. No, io stavo dicendo là. Vabbè, quelle dell'HF sono queste qua. Ti faccio una foto e te le mando adesso, aspetta. E poi questi non sono tutte le frequenze, sono dai 10 metri a 160 metri. Ah, no, sui 7.000, 7.100, ma che cosa c'è? Aspetta. Dove ci sono i ponti radio? Vabbè, deve essere solo quelle. Queste ce le ho tutte. Ma io sto parlando di frequenze dove si sente parlare molta gente, mi sente qualche ponte radio. Ah, ho capito cosa stai dicendo tu. No, di quelli mi sa che non ne ho. Devo guardare su un'altra frequenza per vederle. Per fare ascolto, dici. Oh, che poi il tempo ne ho poco, che a volte il ricevitore mi metto la radio, mi ascolto la radio, mentre sto guardando il telefono, e mi ascolto la radio. Guarda, quelle che ti ho mandato adesso sono tutte dell'LPD, PMR. Sì, va bene, questi qui non mi servono. Non mi servono. Capa. Poi al limite ci sono tutti quelli dei VHF, quelli lì dove ci sono i punti, tutto. Però devo entrare sul coso, perché ce n'ho una pagina qua che non neanche si nota di quanto piccolina. Aspetta fra che ti vado il video scritto. Ecco. E dove eri? Alla sbarra qua. L'ho preso il porto. Ehi. Non era la sbarra, ero più che al volo dove attaccava prima la tirina, ce l'ho preso. A Molo Vecchio, a Marinella. Ora ti mando gli usciti. Sì. Allora già. Che bizzone, visti? No, non sono arrivati. No. Ah, eccoli qua. Che belli che sono. E questi sono quelli più colorati che ci sono, che sono australiani. Cavolo, questi sono belli veramente. Ma sono piccoli sono. No, di media taglia sono. Sono come fosse un albugaccio. Ah, è piccato. No, non sono belli, perché questa è una coppia, così è. Ma è. Che stiamo qua? Fanno quella musica, no? Forse sono io questo che non sto facendo per farli imparare, no? E intanto li fanno, fanno da soli, però non è che lo tiri tu, ma loro lo fanno tutto da soli. Ti dicono, aio vieni, aio vieni, aio, vieni Romeo, vieni. Che lo chiamano, quando se ne entrano in gabbia da soli, capito? Quando li preparo tutta la gabbia, ti metto da mangiare e dico, aio venite su. Faccio così, mi colpo e se traga la su. È intelligente, eh? Sì, sì. Uno mi era scappato, sono rimasto così male, guarda, perché io avevo chiuso la porta. C'era la porta della sala aperta, la mia compagna ha aperto la porta, così si dice. E praticamente... mi è scappato, uno mi è scappato e gli ho ordinato un altro, nel mentre però l'ho messo su Facebook, ho messo il mio telefono e tutto eccetera, dopo tre giorni mi hanno telefonato, mi hanno detto questa signora che aveva trovato nel terrazzo suo, dove si è sbagliato il terrazzo, e si è calato nel suo, si è fatto prendere tutto quanto, cioè si vede che è domesticato, venga a prendersi, non che se lo posso non accontenere, sono andato e me l'ho preso. Ecco, meno male che te l'ha dato, che ci sono quelli che li tengono. Ma tu lo sai che non si può tenere, che c'è un documento, si chiama CITES, hanno un microchip, hanno un documento CITES, se non c'è quello lì te lo trova la forestale, ti arresta. Ah, pure, figurati. E allora è meglio restituirlo. Aspetta, tutti i microchipati ce li hai? No, io ne ho uno microchipato, già avevo due, uno mi è morto. Poi i dati che vi hanno portato sono tutti con CITES, però è interessante che loro abbiano CITES, con il tuo CITES è una cosa in più, capito? Li devo fare il tuo per riconoscerlo. Ho capito. Aspetta, sono belli, solo che diciamo che ci vuole un posto adatto per metterli. La gabbia, vicino al terrazzo, e io li metto... il terrazzo, perché poi quello che avevo ordinato me lo sono ritirato per fare quella qua, ma non costano una riga, non costano 300 euro l'uno. Cavolo. Diciamo, quando li metti fuori non le fanno casino? Diciamo di sì, la mattina cantano, è il canto di pappagallo, sai come è guaiato, però a me non mi comodo, le palazze sono tranquille. Ecco, l'importante è quello, che quando trovi gente che rompe le scatole, allora è un bel casino. Se mi fanno causa, la dico sempre io, perché è il loro modo di parlare, anche per il cane è la stessa cosa, interessante che non abbia di notte, se abbia di giorno non succede nulla, il mio adesso sta ululando perché ci sono le cane in calore e urla, però solo questo periodo qui è un tranquillo. Sì, ma anche qua sono così i cani, ci sono quei vicini che hanno un cane che hanno sempre urlato, sempre a voce, però da di voi qua è il periodo, però finito quello poi non lo senti più. È un mese di là, un mese poi è per forza dei canerica di sotto un gas, cani in calore, capito, mi sente l'odore. Nagio lui yoga a fianco a me, Nagio, lui. E non mangia nulla, il fatto è quello, non mangia, quando è così non mangia. Già, è pinsella chi è pinsella? Ma poverino, non l'ho mai accoppiato, perché della nostra scia si è trovato un po'. Se pensavo non ce ne fosse, invece mi hanno detto che vicino a casa ce n'è una di femmina, è uguale identica a lui, ma non riesco a trovarla, deve essere vicino a casa di quella persona che conosciamo di quella zona. Capo, però è sbagliato, bisogna copiarle. perché c'è gente che ho sentito il cane non so per che cosa lo ha cazzato oppure lo del cavolo gli ha fatto fare, ma sono cose da fare. Infatti è quello che gli ho detto ma se ne ridaglio a te cosa ti ha fatto così. Io una volta sono andato a fare una cosa in una casa a Porto Torres e c'era un cane che faceva il verso per abbaiare, però non abbaiava, doveva solo la bocca e basta. Signora, cosa ho avuto questo cane? Signore, ero dovuto togliere le corde vocali perché abbaiava nel palatone, mi dicevano sempre cose, e siccome non me ne volevo distaccare perché sono affezionata, gli ho fatto togliere le corde vocali. Lei ha fatto un atto ignobile, non me lo doveva manco dire, io pensavo che avesse qualche tumore, qualche cosa. Ha fatto un atto ignobile e ancora di più l'ha fatto quello che gli ha fatto questo lavoro. Chi si sono arrestato? C'è una gamba della voce, capito? E se mi aveva di gamba della voce, corte vocale cosa aveva di? Ma non c'è. Io non vedo questa gente che fa questi lavori qua. Ma il cane o lo lasci stare, lo porti al canile, non lo lasci stare, oppure lasciamo com'è. No, perché ci rifacevano un casino dal palazzo, non lo volevamo più perché abbaiamo, capito? Dimmi, dimmi tu, ci sono cose da fare. E tu mi ha fatto la tenere, non so, ma purtroppo è affezionata, non mi volevo scattare, questo quell'altro. Signora, ma ha capito che cosa ha fatto? Ha tolto la voce a questo animale. E con di più gli ho detto che è un assassino quello che gli ha fatto il lavoro, perché non era mai fatto questo lavoro. Ma certo non l'avrei fatto, ma stiamo scherzando, per carità, c'è gente che si trova nel mondo, e vabbè, quello che vuoi fare già, c'è gente, e anche peggio quando gli tagliano o bracciali, per carità, fate la vita a uno, ma se aveva anche lasciato a te, cosa avresti fatto? Un essere vivente come te sei tu, ma che tu sei un essere, Matteo? Ma molta gente non lo capisce, certo, se non li fai accoppiare un po' soffrono, perché loro l'istinto ce l'hanno di accoppiarsi, capito? Però se io non trovo un cane della sua razza, non lo posso fare accoppiare, perché se poi nascono abbastanza, non li conosci uno che si dirà a fare le due carriere, capito? Sì, quello già ho capito, in effetti è così. Lì a Sassari non ne trovi uno che c'ha la carne uguale al tuo, la stessa razza. Te l'ho detto che ce n'è uno vicino a casa, me l'hanno detto, mi hanno detto però che ce n'è uno di una ragazza che ce l'ha, che è una femmina ed è uguale identico, anche di colore a lui, preciso identico. Invece, basta chiederglielo. Ah, magari in questo periodo adesso è buono, eh? Non l'ho mai vista questa qua, non l'ho mai vista. Ma ho messo anche su Facebook, ho scritto, ciao, mi chiamo Tyson, cerco fidanzata per accoppiamento. Per chi se fosse disponibile, io lo sono. Ma non sarà la figlia di dell'amico nostro? No, non penso. No, ciao, però ci aveva un pitbull che l'hanno regalato perché aveva le smaniuzze. So che vicino a lui ci abita la figlia. Sì, a Giano Sossi. O vicino a lui, la figlia abita lì a Sosso, a quanto so io. No, una abita lì a il palazzo a fianco. Allora si è trasferita, prima abitava lì a Sosso. Ah, boh, lo so. Io so che abita lì. Me l'ha detto lui. E allora si è trasferita. Prima abitava a Sant'Orso, poi a Sorri, a Sorso e poi non lo so, io l'ho preso di vista, non lo so più niente. Era amica di mia figlia anche, che giocavano da piccoli, giocavano, andavano mai insieme. Vabbè, queste cose non le so. Però io un giorno mi ha detto, no, mi abita qua, dovrebbero essere tutte case popolari quelle. Sì, ma io buco. Quell'ambiente lì non ce l'avrei mai fatta andare mia figlia. Vabbè, purtroppo oggi comprare una casa non è facile, già, non è facile. Ah, vabbè, uccidono loro, quello è il casino più brutto che c'è. Ma perché deve essere così? Una cosa non ho capito. Se io devo pagare tot al mese, perché tu decidi decidiamo o di alzarla o di abbassarla? Ma di abbassarla se ne fa vita mai, ma se va vita sempre di alzarla. Dice che aumenteranno almeno di 30 euro la planta adesso, poi più là possono aumentare anche di 100, capito? Cioè sarà dura, perché si annuncia adesso è dura. Sì, è dura forte, è dura sì. Io, a grazie a Dio, stavo lavorando e me la sono fatta senza debiti, senza mutuo, senza nulla. No, io già l'ho preso il mutuo, ho preso prima quell'ordinario, poi ho fatto la mutua e l'ho preso quello regionale. Quello ordinario era 14, quello regionale era 9%. Ma grazie a Dio per giù pagare tutto, non mi penso più. Vabbè, ma erano altri tempi, non è come adesso sta andando e diventando peggio, sta più difficile la situazione. Sì, è vero, adesso non puoi conservare più sudditi, prima mettevamo da parte 500 euro al mese, 500 più 500 mia moglie, e i mutui ci venivano a finire a pagare. Guarda che io tempi indietro, con lo stipendio mio ci mettevamo qualcosa in banca, ci mettevamo, allora non riesci più. E adesso non è che prendo per dire 1000 euro, ne sto prendendo 1400, lo sto prendendo. Oh, se ti fidi non ti lasciano. Prendi una buona pensione, dai. Praticamente non ti bastano, no, vai a fare la spesa e il minimo di 60-70 euro non paghi, che non sono voluto. Facendo la spesa da Eurospin, l'altro giorno siamo andati a prendere un po' d'acqua, siamo andati che non avevamo acqua, oh, poi ha preso altre due cazzate, mia moglie ha preso, quasi 60 euro. E anche qua vicino a casa, da Vittorio, lo stesso, faccio la spesa ancora gli scatti, perché adesso non ti puoi permettere di comprare i negozi normali, perché la roba costa una barca di soldi, a meno che ci siano gli sconti. Pronti. Lo sconto ti mettono, sì che te lo mettono lo sconto. Al posto di fartelo pagare a prezzo giusto ti dicono che ti mettono un euro in più e poi ti tolgono quell'euro, ti tolgono. Che sconto è? No, non è così fatto. Io ci ho lavorato in mezzo, non so come. E loro gli sconti li fanno in base alla roba che prendono, no? Per dire, prendi una partita di roba, prendi 10 pedane di birra, per dire, che una pedana te la regalano, capito? Come omaggio. Quindi, la pedana che ti regalano, tu non riesci a ammortizzare quello sconto che fai. Così è. No, invece io pensavo diversamente, come ti ho detto. Per dire, quando prima di mettere lo sconto ci mettono i prezzi un po' gonfiati e poi ti fanno lo sconto allo stesso prezzo. No, non è così. E poi c'è anche il fatto che magari ci sono gli spicchi per le allodole, ci sono magari sconti in certe cose, certe altre costano di più, ma magari uno che va a fare la spesa compra un po' di tutto e ci rientrano sempre, capito? Sai, in certi negozi che cosa mi dà fastidio, a me questo l'ho notato sempre a Eurospin, negli Eurospin, che vai e trovi la roba caduta nello scaffale, glielo dici, te lo toglie, te ne danno la roba, poi prendi quello che c'è, domani vai che c'è di nuovo quello caduto. Io una volta ho fatto un casino nero, sono andato a Cania a fare la spesa e praticamente gli ho fatto notare ai commessi che c'erano delle mozzarelle scadute e questo commesso quasi si è alterato, perché vabbè non c'è problema, noi ci pensiamo noi, capito, un mestrafortetto. Poi mattina ho preso della roba e non mi ero accorto che c'era uno yogurt che era scaduto. E sono tornato indietro e te l'ho detto a questo commesso, mi fa, io non c'ero, c'era il mio collega, quindi ho detto scusa, ma il negozio è questo, io l'ho preso da questo negozio, che ci sia il tuo collega, a me non mi interessa. Ah, io non lo so se lui l'ha comprato qua, non ha fatto un ministero, vabbè. Sono andato al centrale, ho chiesto al direttore, ho parlato con il direttore, non per lo aiuto, ma mi l'ha del giro, perché mi dice la roba. Ti ho spiegato tutta la situazione, il direttore ha preso il telefono davanti a me, ci ha mandato adesso, te li do io i soldi a chi entra. Poi facciamo i conti noi, gli ha detto. Il direttore, no? E allora? E poi se tu vai a Eurospin, non mi puoi dire che non hai comprato lì a Eurospin, perché tutti i prodotti hanno il marchio Eurospin. Sì, basta. Sì, se fanno così, sai, se lo prepari per la fine richiama i controlli, richiama la finanza e non vedi cosa li fanno più del negozio. E certo, perché la prossima io gli avrei detto, io la prossima volta non dico niente, l'ho preso e l'ho fatto la finanza, subito, immediatamente, con lo scontrino. Sì, sì, sì. E loro vanno a dare i controlli, poi li fanno verbali allucinanti, poi come si chiamano quelli veterinari. Infatti, e poi se tu guardi gli yogurt sono i più che vanno in scadenza, i più di tutti, perché magari sono i più che non, meno che comprano, capito? Ti dico un trucco, la roba che stanno in scadenza la mettono davanti, quell'altra la mettono dietro, quindi la prendi da dietro e sei più sicuro. Sì, ma basta guardare la scadenza e c'è poco da scappare. Vabbè, comunque sì. Ma si lavora così, capito? La roba che sta per scadere prima la mettono davanti per farla pure. E quello è il problema. E poi l'altra la mettono dietro. Io per dire, ho comprato delle uova, anzi me l'ho fatta portare a casa la spesa l'altro giorno perché non potevo andare. E ho chiamato un ragazzo che le porta e gli ho ordinato la spesa, avevano portato a casa, ho detto vabbè, allora mi metto le uova con il pisino, sono andato a fare le uova con il pisino, apro l'uovo, era come se fosse solo, il tuono duro, l'ho toccato, l'ho premuto e non si apriva, era tetaro. Ho aperto l'altra uova così, tutte e sei uova erano così, ho detto vabbè, ho rinunciato, non ne faccio più un po' per pisire, mi faccio pisire da sola. Già me l'avevi detto ieri. Ma come a me non mi è mai successa una cosa del genere. Non so se sia stato il frigorifero che da burra rovinato così, ma non penso, perché io sempre ho messo il frigo. Sicuramente quello lì hanno preso calore, perché l'uovo si fa solo quando prende calore. Sì, il fuoco era duro, come se fosse il sole. Rimaneva duro, tu lo prendevi, si faceva impronta, però non si sbagliava. Era già pronto, già cucinato te l'hanno dato, no? Io a caso lui c'ha il budino, ma... la cocca. Allora, infatti che non volevo dire, ma mi ha coperto, lasciamo perdere, non me l'hanno mai portato, non mi date, dico, ma che stavolta è successo, pazienza, loro non sono dentro, quindi... Sì, su quello sì, però purtroppo succede, ma succede anche se tu vai a prenderla a qualcuno anche senza essere in negozio, può anche succedere. Adesso parlando di un altro negozio, prendo la pasta, la mia compagna prima di cucinare va a mettere il recipiente bianco, la fa passare tutto, come si fa col riso, mamma lo faceva col riso e lo fa anche con la pasta. Per fortuna che l'ha fatto, tutta piena di babauzzi. E i granai com'era come negozio? Bello? Sì, sì, sì. È un negozio ben fornito, c'è di tutto, un negozio grande. cose nei negozi, però a roba di marca, è roba che diciamo la vendita è quella che è, perché c'è molta concorrenza adesso, però all'inizio andava un po'. Non ci sono mai entrato lì. Eppure una volta ero per entrare e poi invece sono tirato dritto. No, adesso c'è di tutto, fra. C'è di tutto, la pescheria, la macelleria, c'è tutto. C'è tutto il pesce fresco perché noi ci serviamo da rimbicio, eccetera, eccetera. Il pesce ce l'hanno sempre fresco, le cose lo stesso. Ci abbiamo sempre roba fresca, insomma. È difficile che ci sia il pesce che ci sia rimasto. Il pesce, a meno che un negozio che non riesce a vendere, allora lo rimette tutta la settimana. Sì, infatti. No, io ci ho lavorato in pescheria, il pesce poco ne avanzava, si vendeva tutto. E poi c'è la gente che aspetta quando arriva. Ma che ho visto adesso no, adesso sta chiudendo questo spedizio che stanno ingrandendo il locale, ma quando c'era la pescheria si vedeva anche i punti che arrivavano erano vivi ancora. Sì, anche da noi, anche i granchi, tutte queste cose qua, i granchi vengono anche pescatori a prendersi. Poi quelli arrivano vivi, stanno sempre camminando, quelli già li ho visti. E i pescatori vogliono quelli piccoli, no? Ci vuole già di libro, ti rimuovo, rimane in mezzo, anche i dogumisti, se li vuoi, con la paletta, mani non ce le mettono. Ma ai granchi no, saranno, anche se sono piccolini pizzicano. Ma bisogna rimanere in mezzo, capito? Con la paletta li metteva qua, non ce ne metteva neanche questa bella ragazza, non ce ne metteva male dentro, invece l'ha pizzicata e non ne ha messo più. Ma con la paletta li prende più, non fa più la regolimante, pizzicheggia le vuole. Infatti, a volte se risuonavamo lui, andavamo con mio cognato a prenderci lì per andare a pescare, poi a Barlo che siamo due andelli, è un periodo che non siamo andelli. Sì, io sono già 2 anni che non ci vado, e prima mica ero con lui, con mia zia, e io non c'era il giorno che non ci andavo, uscivo da lavoro e ci abitavo il capo. Allora ultimamente stavamo andando lì alla Marinella, stavamo andando con la spiaggetta, non era brutto, ma c'è mai biliardo lungo. Io lì sì, qualche orattina l'ho preso, qualche orattina ma piccola e meno grande, sui 300 grammi. Ma non mi pare roba... C'è una donna, una signora che ci va tutti i giorni, ci andava quando c'era un periodo e ci andavamo anche noi. E ne pigliava poco roba minuta, tutta a risiglio. Dai che ne pigliava, dice, una decina, c'è andare bene, a farmi la zuppa. E tu sai cosa fanno? Li macchiano, fanno la ministrina. C'era uno che io quando li prendevo piccoli ce li buttavo in mare. Oh, non li butti, non me li dia a me che faccio la minestrina, che poi li macino, li passo con lo scorino e li faccio la minestrina di pesce, non mi dia schifo. Per carità, no. Meglio niente. E ce n'era uno che ci aveva le sardine invece che sotto sale le metteva con la polenta, perché la polenta dice che non li fa attaccare, invece il sale si attacca, viene più bene a staccare, e metteva, buttava come un galleggiante grande con le diame attaccate, gli metteva le sardine attaccate agli ami, non c'è la roba che pigliava di quei barracuda che erano a pigliare, gliel'ho comprato uno io, cazzo, che eravamo a vino, saltava dal coppo in maniera ti brincava a lui. Non c'è dove i pesci li prendevamo, dove attaccava la Tirrenia alla Marinella sempre, dove attaccava attaccava la terrina prima, la Grimaldi, lì al posto, in quel posto tutti già li prendevamo, quello parallelo al posto industriale. Non so se ci sei mai andato tu lì. Allora tu entri al posto industriale, invece di andare dritto, ci a sinistra, così. No, entri da dove entri per andare alle navi, quello normale. Al posto industriale non ci puoi mai arrivare, perché è dentro lì, che dentro i cancelli, lì non ci puoi entrare tu. No? Al Molo Oasis invece. Esatto, Molo Oasis lo chiamano, sì, mi stavo dimenticando, mi sono dimenticato come si chiamava. No, si può andare un po' più lì. No, adesso no, ma prima sì. Io quello che pescavo lì lo chiamo pesci di Sri, io c'avevo un amico che ne pesca ora anche da 4-5 kg. Però dice che era venuta una sorella, che se l'ha fatta in fondo, è andata a mangiare razzi che ha sapore di petrolio. Sì, è così, perché te lo dico io. Allora, io quando no, ti ricordi quando si è scoppiata quella nave? Attaccata al porto, cosa era quella nave di benzene? La Panam Serena. La Panam Serena. Poi siamo andati noi a ripulire tutto lì, siamo andati. C'ero anche io e altri miei colleghi. Il mezzogiorno, quando andavamo a mangiare, finito, io mangiavo il panino, mangiavo una birretta e via. Con una lenza ci mettevamo, lì ci mettevamo, poi pigliavi oradi, ma beh, dimmi, ma avevano sapore del petrolio. Te l'ho detto, io chiamo pesci di Sri, non ci sono mai andati per pescare. Andavo a vedere questa micuglia, gli ho comprato anche orate grosse. Ci sono delle vasche, tu se riesci a lanciare questi vascoli sono tutti pieni di orati. Infatti dalla via ho detto, finito, non ne becco più. Io me l'avevano detto, prima si vede, non è per un petrolio, me lo pensavo in chi vedi tutto bene, a moglie. E io ti capito. Ascolta, quando parti per la nave, lasciava la schiuma, anche per mezz'ora rimaneva ancora la schiuma, tutta la schiuma rossa. Lo so. E purtroppo è così. E infatti poi ci mettevamo il cuore lì nel Molo Asia e lì ho preso qualche oratina bella, ho preso e orate, mormore, quelle cose così, e una volta ci ho pigliato una malamica. Anche io l'ho preso, io li ho preso orate grosse, ho preso razze, una fatta bella mano, orate saragli di quelli che si vedete quasi, che si pizzucci, e mi rimane da un chilo che due, ne ho preso due di quelli. Un giorno c'era un tipo, sono arrivato per me, si fa che manco solo così piglia nulla. Ho detto vai, tranquillo che vedi adesso, ma sono arrivato io. Ti ho toccato la spalla, se volete appiccare lì. No, se non pare bene, non ti andare più. No, io ero una grossa proprio, l'unica cosa che ho preso più grossa era la palamita, sono stato un chilo e mezzo, una cosa del genere, poi ho ricalcolato dai 500-600 grammi, non di più. No, io la latta ce l'ho presa da 3 kg, ho preso da 2 kg 9,50, pesato, no, 3 kg 9,50 te l'ho preso, e l'ho presa lì al Lido militare, ho preso il militare. Ah, sì, ho capito quella parola. No, io sai dove l'ho presa quella palamica? L'ho presa, hai visto l'Oasia, dietro un muraglione, a mare aperto, l'ho presa, sulle rocce ero lì. E ti dico una cosa, ti ricordo una giubilata, era cominciata a fare Eva, a giovare, ma va mennando, la via in cu. Come stavano a ritirare la lenza, ho sentito lo strappo, a giovare, oh cavolo, io capisco che cosa. Aggiù Biraddu. Con Murisello, ci rendi. Ha da buono un poco. Incagliata, ha giocato, vai in ora ma incagliata secca. Ha detto, adesso ti rendi, mi sono guidato alla Frabassi, a vedere se riesci a disincagliarla, nulla da qua. Ha detto, beh, vado a dare, come stavo andando a tagliarla, la resta per andarmene. Oh, e sento di nuovo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ti rendi. Mi ha visto, alla fine faccio un busto, un'ora e mezza a tirarmi nella fuga, piano, è arrivata vicino a me, è arrivata, e sono rientrato, fissamente a quinto a moglio, sono entrato in acqua, proprio a chiedere il rocco, non dipende che noi gli cicavo, che se parlavo io, sono stato fatto da giosso, e sono parlato vicino all'ultimo rocco, a moglio. E mi sono riuscito a tirare nera, tutto il fuso mi sono, ma non ne ha giocato. Allora io faccio così, con la parte che stai dicendo tu, metto il filaccio del pericolo qui, e dall'altra parte pescavo con le carte, quando sentivo il barattolo lo squame, salivo con le scalettine che c'erano, andavo e tiravo. Io non lo sapevo, non lo conoscevo neanche quel posto, è il primo giorno, la prima volta che ci sono andato lì. E quando piove c'era il riparo, perché prima lì c'erano le guardie giurate, c'erano quelle casettine sotto al muretto. Cioè, quando piove ci mettevamo sotto quel muretto, una volta quando è entrato il mare, grazie a lui, non sapevamo come fare ad andarcene via, c'era mare a una parte e mare all'altra, le onde che saltavano dal muretto e di mezzo della luce si passava. Allora stavamo aspettando il momento giusto, perché abbiamo sbagliato, da fatto la luce, io. No, casettine non le ho visto io lì, non le ho visto. Ma la parte di fuori erano la parte di dentro? La parte del muro, non erano casette, erano delle rientranze nel muro. Ah, boh, non ho, non faccio manco fatto grazie a voi da un po'. Infatti avevo controllato più in giro, questo è peccato. E poi lo stanno fatto più entrare e via. E la maestra lo chiede. Adesso ci vogliono permessi, infatti il permesso se devi andare perché metto le buste. E che permesso ci vuole? Per andare a pescare, permesso per pescare, poi alla capitaneria te lo fanno loro, se lo sai fare, se no te lo fa il computer e te lo stampi, fuori. No, ce l'ho quello, me l'hanno fatto in capitaneria. Magari. Il permesso come stai dicendo per andare a pescare? Sì, ma bisogna rinnovarlo ogni anno. Ah, ogni anno ce lo rinnovi. Vabbè, perché io ce l'ho di 2 anni fa. No, allora è scaduto il mio. È già scaduto. Ah, lì ti domandano il permesso e ti rompono le scatole. E allora? Adesso mettono anche la multa. E tu metti i permessi per la pesca in mare. E ti dicono dove devi andare. Come si chiama? Agricole. Non mi ricordo come si chiama il sito, cosa ci sia scritto sopra. Vabbè, comunque, basta che ti informi su internet, guardi, permesso per pescare il mare. Prima lo usavano solo per fare, come si dice, facevano solo il coso per vedere quanta gente pescava, eccetera, eccetera. Adesso non è più così, adesso purtroppo. Ho permesso che se non c'era ti vuole la vita. Capa, no, io ho fatto. So anche dove andare, non so benissimo. Non pensavo che mi scadesse in un anno. Ma dicembre, è sempre così stato. Io già sono rinnovato tutti gli anni. E non è qualche senso questo, stare a rinnovare, perché è gratis, lo fanno gratis, e a rinnovarlo, non lo possono fare 10 anni oppure 5 anni. No, io voglio sapere sempre che tipo di pesca fai, tutte queste cose qua, no? Ogni anno può essere diverso, uno può farlo, dopo non può non farlo, quel tipo di pesca, può cambiarlo, ma non è che sia sempre uguale, ci sono persone che poi prendono la barca e pescano dalla barca e quindi li mettono a pesca con la barca. A me quando me l'ha chiesto mi ha detto canna alla spiaggia, eh? Va bene. Questa cosa c'è anche due o tre di tipi di pesca, pesca subacquea, pesca con la tana, pesca a volentino, a che si capite già da quel marcato di pesca in volentino, nessun disegno. Vabbè, questo non lo so dire, io ho fatto sempre quello, ho fatto, e questa mi sembra che è la terza volta che lo faccio, perché veramente mi ha aggiunto prima l'avvio, poi avevo anche la licenza delle acque interne, dei fiumi, avevo, e poi mi è scaduta quella lì, quella ce l'avevo per 5 anni. Non ci sono mai andati in più a pescare. Io sì, bello, bello, E hai visto? Allora, una di a Fiume Santo avevo vogliato i garfi. Ah no, io mi sono male. Mai, non sono andato più dove sono andato. E l'idea mia è andare a Cugina, però a Cugina ci sono le trote, ci sono altri tipi di pesce, ci sono, e anche le carpe. Sì, ma la carpa è buona. Un amico che andava lì a Cugina, se c'era il freezer pieno, un giorno mi ha telefonato e mi ha detto: amico, ti sto portando due o tre carpe di quelle grandi enormi, sui 4 kg e mezzo, 5 kg, che è atteggiamento. Uno mi pare che pesava 4 kg e passa, altre 2 kg, insomma me ne avrei caduto tre. Che cosa me ne faccio che non mi piace il pesce di fiume? Tu apri di più di due come te di qua. Fa la tranci, mettilo nel sale e lascia tutto la volta il sale grosso. Domani mattina lo fai come il baccalà e tu mi dici polverue. L'ho fatto come il baccalà, fra. Se tu mi dici che cos'è questo pesce, ti ha detto il baccalà, non si capiva che era caldo. Davvero? Io non li ho mai mangiato. E non li voglio mangiare, che maledetto, che vado, un sauro e un fango. No, secondo dove la peschi, sì. Secondo dove la peschi. Perché la carpa che fugge già, come farà, come si chiama la triglia, ce l'ha presente. Che fugge già la sabbia nel mare. Secondo me la peschi non è così, se tu sei timido per pescarlo non è la sapura. Addirittura questa ricorda se tu fatti in acqua, perché se la comprata una canna nuova, una canna che ha buttato la canna in acqua, se tu fai una pigliare c'è casa per la comprare. No, ma è bello, sai qual è bello di tutto, anche se è un pesce che non ti piace, è bello attaccarla. Ma che bianchi quando faccio il biglietto? Sì, ma quella muore, no? Sì, c'è un pesce che lo tese in un cavolo, allora devo andare a fare. Eppure l'ho mangiato, fra, era buono anche fatto come mi ha detto lui, era buono veramente. E il brutto è che quando sono grosse c'erano le squame, ma grosse, anche quando le squame è un casino. Quindi le devi fare, le devi cercare di chiudere con coltello e tagliarle un po' tutto al polo, a pelle, perché se no le squame sono un po' più. Capo, ma lo sai dove ci sono le trotte anche? Hai visto il ponte della Busassa, nella strada Vecchia per Alghero? Lì, sotto, nel ponte della Busassa, sotto più a largo, c'è un fiume, dice che c'è, e ci sono le trotte. Oh, e io non ci sono mai andato là a pescare, non so nemmeno come si faccia, come si facevano i mesti, non so nulla perché non ho mai fatto quel tipo di pesca. Sì, io l'ho fatto, c'ho anche la canna per il fiume, cioè, non la mulinella, non c'ha niente. Canna fissa? Sì, canna fissa. Infatti ne ho comprato una nuova l'anno scorso, me l'ho preso, proprio per andare ai fiume, perché stavamo decidendo di farci la licenza di nuovo, e invece da noi non avevamo fatto licenza, dove siamo andati. E lì me l'ha detto un uomo anziano che ci andava spesso, di tutto bella, ci andava spesso a pescare le trotte, al ponte della Busassa. Io non ci sono mai andato, Ci ha pagato. Sì, sarebbe bello perché tira la canna. Ma la gente la pesca con le ciliegie. Con le ciliegie? Mangiano sia le ciliegie sia il mais. Il mais sì, ma le ciliegie che c'è in nuova? la roba dolce mi piace. Beh, un pasticcino. Quando me la devi più la gentile, la Grecia me la mangio io, si permette. Se mi piace la roba dolce, un pasticcino, da me. Qui si dice troppo scarocche con le ciliegie, con i lombrichi. I lombrichi dice che vanno male. L'ombrico di terra. Quelli. Quello lo mangia anche l'anguilla. Sulla bissala, con tutta la gente, tutti i cadaveri che ci sono in mare, io pesce non ne mangio più. A chi mi piace ci mangiare i cadaveri che c'è in mare? Sì. Ma sai cos'è? La maggior parte dei cadaveri se li mangiano quei pesci grossi grossi, tipo pesce cane, queste cose qua. No, c'è anche i piccoli se li mangiano, che dove garri li mangiano. No, mica sanno che sono cristiani e li rispettano, quello che troppo lo mangiano. vabbè, purtroppo, cadavere. Hanno già molto venduto i porca miseria, e non fanno niente, intanto li lasciano partire lo stesso. Vorrebbero bloccarli dal posto a dove partono, capito? Invece se li affuttino, se li cavano da vita di piedi, non allora, non hai sentito cosa pagano questi ragazzi, questa gente qua, a persona, 1.000 euro a persona pagano. Anche 7.000. Dipende, ma è possibile che questo è un commercio, è una cosa che un lavoro adesso hanno preso quel cavolo di motoscafista, lo scafista l'hanno preso, mi sa che è già libero. Per carità, con la gente che muore, bambini, donne, poi cristiani, per carità. Loro scappano lì perché non stanno bene, c'è poco da fare, però vanno incontro alla morte, pagano per morire. Bravo, stanno pagando per morire, stanno proprio pagando per morire, ma ti sembra una cosa giusta, e gli stati non ne frega niente, secondo me c'è qualche guadagno su queste cose che hanno, c'ha lo stato, se no l'abbiamo bloccato. I guadagni ci sono perché poi ci sono i centri di accoglienza, ci sono le cooperative che hanno questi centri di accoglienza, guadagnano, capito? Certo. Oh, cosa ci vuoi fare? Beh, già, io mollo adesso, me lo mollo adesso. Io mi rompo i occhi. Anche io mi sono